Più non respiro, più c'è chi si dà aria. Più c'è chi perde, più c'è chi compra vittorie. Ogni successo è del gruppo, la sconfitta è solitaria. E il carro resta vuoto quando non sei il vincitore. Più vado avanti, più non resta a guardare. Più accendo la radio, più sento che qualcosa deve cambiare. Ogni successo è del tutto pianificata a dovere. Ma non perché sei commerciale. C'è ancora qualcuno, per fortuna, che dice la sua. Fuori dal coro, fuori da ogni finta ipocrisia. Più si comunica, meno si litiga. Se c'è più musica, meno politica. Mi sembra l'unica mia libertà. Non mi sta bene per niente. Per niente accondiscendente. Sono un credente. A volte pregare può alleviare le sofferenze. Ma a volte non è sufficiente. Sono un perdente. Sa come riemergere se dopo aver toccato il fondo. Sa quali regole usare per stare al mondo. La dignità è una rarità che non hanno in molti. Per affrontare le storie di tutti i giorni. Per chi lo sa, c'è sempre un rimedio. Nessun segreto, da vecchie don Diego. Se la Calabria chiama, il Piemonte risponde a quell'eco. Il vero attira il vero, non c'è nessuno spreco. E oramai da molte lune funziona così. È una continua crescita per chi rimane qui. Noi lo sappiamo, noi lo facciamo, ci adoperiamo. Hey, fai di sapere chi siamo. E oramai da molte lune, l'unico obiettivo è dare più volume a ciò in cui credo, a ciò che vedo. Che succede, che succede nei tuoi giorni? Sono le storie di tutti i giorni. E oramai da molte lune, l'unico obiettivo è dare più volume a ciò in cui credo, a ciò che vedo. Che succede, che succede nei tuoi giorni? Sono le storie di tutti i giorni. Ha smesso di sorridere più di una iena. E il siero di ste vivere non mi avvelena. Io sto tra chi si allena e chi si aliena da sta scena. E chiedo cibo per la mente, indovina chi viene a cena. In cambio do pelle per le genti più esigenti. Sia quel che sia cibo chi senti in troppi complimenti. Completamente perso in una relazione. A furia di chiamarlo amore, scordato pure il suo nome. Puoi darlo per scontato neanche fossimo a gennaio. Ma l'abito non fa il monaco, il sacro sai non sta nel saio. Sai ho capito più guardando un formicaio. Il concetto di fratellanza che parlandone con un amico. Mi corico col sole, mi ricarico col sol. E non mi compri con frasi consolatorie. Da un po' che il silenzio a dettarmi ste parole. Uniche gioie provvisorie in queste fasi transitorie. E oramai da molte lune, l'unico obiettivo è dare più volume a ciò in cui credo, a ciò che vedo. Che succede, che succede nei dintorni? Sul suono le storie di tutti i giorni. E oramai da molte lune, l'unico obiettivo è dare più volume a ciò in cui credo, a ciò che vedo. Che succede, che succede nei dintorni? Sul suono le storie di tutti i giorni. Più vado avanti e più non resta a guardare. Più accendo la radio, più sento che qualcosa deve cambiare. Ogni successo è del tutto pianificata a dovere. Ma non perché sei commerciale. Più vado avanti e più non resta a guardare. Più accendo la radio, più